Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Oggi in primo piano la Brexit da una parte e il tema dell'immigrazione, immigrazione che naturalmente si lega a quello delle crisi internazionali, e proprio di questo e di Siria, di Iraq, di Libia oggi si parla al Consiglio Esteri a Bruxelles. L'Italia presenterà nuovamente le sue proposte, ci sono anche quelle di altri paesi, ha detto Federica Mogherini, alto rappresentante per la politica estera europea, ma anche la Commissione è al lavoro su questi temi. Sentiamo Mogherini. Stiamo lavorando da mesi ad un piano che affronti l'immigrazione nel suo complesso, a partire dagli investimenti nei paesi d'origine, in Africa ma anche in Asia e con la Libia soprattutto. Proprio ieri è arrivata la lettera del primo ministro Sarraj a me indirizzata per richiedere l'aiuto, l'assistenza dell'Unione Europea per formare la Guardia Costiera Libica. È un invito che accoglieremo, ne discuterò oggi con i ministri. Sarà molto importante per controllare le acque territoriali libiche, per farlo insieme ad i nostri partner libici e quindi anche controllare i flussi migratori. Non posso confermare o discutere di cifre, posso però confermare che stiamo lavorando io e Frans Timmermans ad una comunicazione che presenteremo all'inizio di giugno e che porteremo poi in Consiglio europeo alla fine del mese di giugno. Stiamo lavorando ad un piano per combinare risorse del bilancio europeo, investimenti privati, garanzie della Banca europea per gli investimenti. A giugno dunque per questo specifico dossier, dunque per le grandi crisi che poi sono quelle che alimentano anche in gran parte i flussi migratori. A proposito di cifre, da questa mattina circola in rete un numero, 111. 111 sarebbero i miliardi che l'Unione Europea ha rimborsato al Regno Unito dal 1985 ad oggi. Una cifra, come dire, in parte nota, la famosa questione e la clausola ottenuta ormai più di 30 anni fa dall'ex primo ministro Margaret Thatcher per appunto l'accesso all'UE, prevedeva una serie di rimborsi. 111 miliardi sono comunque davvero tanti, una cifra destinata a far discutere. Sentiamo il servizio. Tra un mese esatto i cittadini del Regno Unito saranno chiamati a votare al referendum per decidere se il loro paese dovrà rimanere nella UE oppure no. In caso di uscita, cioè di Brexit, cosa cambierebbe nella vita di tutti i giorni dei cittadini e delle imprese? L'avvocato Martin Pugsley, dello studio legale Delfino Wilkie Farren Gallagher, lo spiega sul Sole 24 Ore di oggi. I più penalizzati sarebbero gli studenti universitari italiani a Londra. In caso di Brexit potrebbero arrivare a pagare fino a 36.000 sterline all'anno diretta, perderebbero l'assistenza sanitaria gratuita e non avrebbero più diritto ai prestiti studenteschi. Un italiano che oggi vive a Londra sarebbe invece relativamente al sicuro. Tutti i diritti acquisiti fino al giorno prima della Brexit sarebbero garantiti. Diverso il caso di chi a Londra sta per trasferirsi. Dovrebbe fare domanda per un visto di lavoro e la sua qualifica professionale non sarebbe automaticamente riconosciuta. Un'azienda italiana con filiali in Gran Bretagna potrebbe dover ridiscutere i contratti se avevano come oggetto una particolare legislazione comunitaria. E chi esporta Made in Italy dovrebbe sperare in un rapido accordo di libero scambio tra UE e Gran Bretagna, altrimenti il rischio di dazi punitivi sarebbe concreto. Michaela Cappellini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 30 giorni al voto, vi ricordo, credo di averlo già fatto, che insomma seguiremo davvero dall'interno, quindi dal Regno Unito, con i nostri inviati questo avvicinamento e questo percorso. Vi anticipo che domani alle 12.30 saremo in diretta web dal Parlamento Europeo di Bruxelles. Abbiamo raccolto un gruppo di europarlamentari italiani e di specialisti per parlare di Brexit, per parlare dell'effetto che fa, del rischio legato o magari delle possibilità nuove che si aprono in caso di voto positivo. Bene, per ora è tutto, vi saluto, naturalmente Europa 24 torna come sempre domani alla stessa ora. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.